Capitolo 29. Un barlume di speranza. Le brevi giornate d'inverno si succedevano rapidamente, ma non per Pollyanna. Per lei erano giornate lunghe e a volte molto dolorose. Nonostante ciò, affrontava tutto con coraggio e con viso sempre lieto. Come poteva rifiutarsi di fare il gioco, ora che anche zia Polly lo aveva imparato? E quante cose trovava adesso zia Polly di cui essere contenta? Non era stata zia Polly a raccontare un giorno la storia di quei due bambini che durante una tormenta di neve avevano trovato riparo sotto una porta scardinata e si erano chiesti che cosa accadeva ai poveri che non trovavano nemmeno quella. E fu proprio lei a raccontare di quella vecchietta che era rimasta con due denti soltanto, ma che era tutta contenta perché quei due denti erano ancora robusti. Seguendo l'esempio della signora Snow, anche Pollyanna lavorava a maglie e faceva bellissimi piccoli capi con lane colorate che durante il lavoro risaltavano sulla tela bianca del lenzuolo. E proprio come accadeva alla signora Snow, quell'attività le faceva provare la gioia di avere ancora mani e braccia. Ora Pollyanna poteva ogni tanto ricevere qualche visita, le arrivavano di continuo i messaggi di affetto da coloro che non potevano andare da lei personalmente e sempre le portavano qualcosa di nuovo a cui pensare, e Pollyanna aveva bisogno di pensare a cose nuove. John Pendleton era venuto a trovarla una volta e Jimmy Bean aveva potuto vederla due volte. John Pendleton le disse che Jimmy stava diventando un ragazzo in gamba e che si comportava bene. Jimmy le aveva parlato della splendida casa in cui era stato accolto e le aveva detto che John Pendleton era un padre straordinario e tutti e due dicevano sempre che era stato tutto merito suo. Questo fa sì che io sia sempre più contenta di aver avuto le gambe, aveva detto in seguito Pollyanna alla zia. E così l'inverno passò e giunse la primavera. Le persone che amorevolmente seguivano Pollyanna erano costrette a constatare che le cure non avevano portato alcun miglioramento e c'erano tante buone ragioni per pensare che le pessimistiche previsioni del dottor Mead dovessero avverarsi, e cioè che Pollyanna non avrebbe più camminato. Tutta Beldingsville naturalmente si teneva informata riguardo a Pollyanna, ma c'era una persona che viveva con ansietà particolare la situazione di quella malattia di cui riusciva in un modo o nell'altro ad avere notizie quotidianamente. Ma i giorni passavano e la situazione non migliorava, anzi peggiorava, e qualcosa oltre alla preoccupazione cominciò a prendere posto nel suo animo. Era un sentimento di disperazione misto a cocciuta determinazione, con il sopravvento ora dell'una, ora dell'altra. Alla fine la determinazione ebbe la meglio, fu allora che il dottor Chilton si recò un sabato mattina da John Pendleton. Signor Pendleton, iniziò subito a dire il dottore, sono venuto da lei perché in città è la persona più al corrente dei miei rapporti con la signorina Polly Harrington. John Pendleton si rese conto di aver lasciato trasparire la sua sorpresa. Sapeva in effetti qualcosa su quella storia passata tra Polly Harrington e Thomas Chilton, ma col dottore non ne aveva mai accennato per 15 anni o anche di più. Certo, rispose cercando di dare alla sua voce un tono che dimostrasse simpatia senza ombra di curiosità. Si rese conto subito però che non era il caso di preoccuparsi. Il dottor Chilton era troppo preso dallo scopo della sua visita per notare qualunque altra cosa. Pendleton, bisogna che io veda quella bambina, che la visiti, devo proprio, capisce? Perché no? Pendleton, lei sa perfettamente che non ho messo piedi in quella casa per più di 15 anni. Lei non sa, ma adesso glielo dico io, che la padrona di casa mi disse che se mai mi avesse chiesto di tornarci avrei dovuto intenderlo come un suo riconoscimento di colpa. Tutto allora sarebbe ritornato come prima, il che significava che avrebbe accettato di sposarmi. Forse lei riesce a immaginare che Polly Harrington mi faccia andare da lei adesso? Io non ci riesco proprio. Ma non potrebbe andarci senza che lei glielo chiedesse? Il dottore si fece serio. Beh, no, o anche io vede la mia dignità. Ma se la cosa le preme tanto, non potrebbe passarci sopra e dimenticare il passato? Dimenticare? Interruppe il dottore con veemenza. Non parlo di questo genere di dignità. Per quello che mi riguarda, andrei anche in ginocchio in quella casa se servisse. È della mia dignità professionale che parlo, c'è un ammalato e io sono un medico, non posso presentarmi alla porta e dire eccomi qua, fatevi curare da me. Chilton, qual è stata la causa della vostra discordia? Chiese Pendleton. Il medico ebbe un gesto di impazienza e si alzò in piedi. La causa? Qual è la causa di una discussione tra innamorati dopo che è finita? Disse facendo lunghi passi per la stanza al fine di placare il nervosismo che aveva addosso. Una stupida discussione a proposito delle dimensioni della luna o della profondità di un fiume. Hanno mai una qualche importanza queste cose, che sia paragonabile ai veri problemi della vita che seguiranno? Per me quella discussione è dimenticata da un pezzo, è come se non ci fosse neanche stata. Pendleton, bisogna che io veda quella bambina. È una questione troppo seria, voglio dire, credo in tutta onestà che esistano 9 probabilità su 10 di restituirle l'uso delle gambe. Le parole erano chiare, incisive ed erano state pronunciate in prossimità della finestra aperta, vicino alla quale si trovava la poltrona dove era seduto John Pendleton. Accadde così che fossero udite molto distintamente dal ragazzino che si trovava in giardino sotto le finestre di quell'ala della casa. Jimmy Bean, il quale il sabato mattina aveva il compito di strappare le erbacce dalle aiuole, tese le orecchie e si dispose ad ascoltare con la massima attenzione. Pollyanna, camminare? Stava dicendo John Pendleton. Come può essere in grado di dirlo? Lo dico basandomi su quello che ho letto e studiato, anche se non l'ho mai visitata. Il suo caso sembra molto simile a quello che un mio collega ha da poco trattato con successo, frutto di studi che gli sono costati anni di ricerche. Mi sono messo in contatto con lui e mi sono un po' specializzato anch'io in quel campo e da quello che ho potuto dedurre. Ma prima devo vedere la bambina. John Pendleton si drizzò nella poltrona. Certo che deve visitarla, non potrebbe provare a parlarne con il dottor Warren? Chilton scosse il capo. Temo di no. Warren è stato molto corretto nei miei confronti. Mi ha detto lui stesso che aveva proposto di consultarmi, ma la signorina Harrington si era opposta con tanta decisione che lui non ha osato insistere, anche se sapeva che desideravo vedere la bambina. Recentemente poi alcuni dei migliori pazienti di Warren sono venuti da me. Questo mi lega ancora più le mani. Eppure, Pendleton, devo arrivare da quella bambina. Pensi un attimo a quello che potrebbe significare per lei. Sì, certo, mi rendo conto che cosa potrebbe succedere se lei non riuscisse a visitarla, disse Pendleton amaramente. Ma come posso se non mi invita a farlo direttamente la signorina Harrington, la quale non lo farà mai? Bisogna indurla a chiedervelo. Ma come? Chi può convincerla? Ah, non lo so proprio. Capisco. Nessuno può farlo. Lei è troppo orgogliosa e nutre troppo risentimento per chiamarmi dopo quello che disse anni fa su ciò che sarebbe accaduto se mi avesse chiesto di andare a casa sua. Eppure, se penso a Pollyanna e alla tragica situazione in cui si trova. E quando penso che forse si avvicini a una via di uscita che per stupido orgoglio, per riguardo professionale, io. Il dottor Chilton non terminò il discorso e con le mani affondate nelle tasche si rimise ad andare su e giù rabbiosamente per la stanza. Ma se qualcuno riuscisse a farle vedere, a farle capire, tentò ancora John Pendleton. Sì, certo, ma chi lo farà? Chiese il dottore voltandosi di scatto. Non saprei proprio. Borbottò l'altro, sempre più depresso. Fuori, sotto la finestra, Jimmy Bean si scosse improvvisamente. Era stato accovacciato lì fino a quel momento, non osando quasi neanche respirare, tanto attentamente era stato ad ascoltare quella conversazione. Bene, lo so io chi ci andrà, si disse, preso dall'entusiasmo. Ci andrò io e subito. Si drizzò in piedi, girò con precauzione intorno alla casa. E appena fuori dal cancello si mise a correre a rotta di collo giù per Pendleton Hill. Capitolo 30. Jimmy trova la via d'uscita. La signorina Polly? C'è Jimmy Bean? Annunciò Nancy sulla soglia della porta. Vuole parlare con lei? Vuole parlare con me? Domandò la signorina Polly sorpresa. Sei sicura che non abbia chiesto di Pollyanna? Se vuole oggi può salire per qualche minuto. Gliel'ho detto, ma ha risposto che vuole vedere lei. Va bene, scendo. La signorina Polly si alzò dalla sua poltrona con fare un po' stanco. In salotto trovò ad aspettarle il ragazzino. Aveva due grandi occhi espressivi e il volto incredibilmente accaldato. Cominciò subito a parlare. Temo che sia orribile quello che faccio e che sto per dirle, signorina, ma devo farlo, è per Pollyanna. Io per lei mi getterei nel fuoco, farei il giro del mondo a piedi o qualunque altra cosa. E anche lei, signorina Harrington, farebbe altrettanto se sapesse che c'è qualche possibilità per Pollyanna di camminare ancora. È per questo motivo che sono venuta a dirle che è soltanto una questione di orgoglio che impedisce a Pollyanna di riprendere a camminare. Beh, sono certo che se lei, signorina Harrington, capisse questo, manderebbe a chiamare subito il dottor Chilton. Che cosa? disse la signorina Polly, mutando l'espressione dalla sorpresa all'indignazione. Jimmy sospirò con aria rassegnata. Mi dispiace, non volevo farla arrabbiare. È per questo che le ho detto subito della possibilità per Pollyanna di camminare ancora. Ho pensato che quella cosa lì l'avrebbe ascoltata. Insomma, Jimmy, di che cosa stai parlando? Jimmy sospirò ancora. Sto cercando di spiegarglielo, signorina. Bene, allora parla, ma comincia dal principio e fai in modo che riesca a seguirti, non lanciarti a tutta velocità come hai fatto finora facendo tanta confusione. Jimmy si inumidì le labbra per aiutarsi a ricominciare nel migliore dei modi. Bene, tanto per cominciare, il dottor Chilton è venuto a trovare il signor Pendleton e sono andati a parlare nella biblioteca, è chiaro? Sì, Jimmy, disse la signorina Polly con un filo di voce. Bene, la finestra era aperta e io stavo strappando le erbacce dall'aiuola proprio sotto, così ho sentito quello che dicevano. Vuoi dire che sei stato ad ascoltare? Non l'ho fatto apposta, sentivo semplicemente quello che dicevano. Si difese Jimmy. E poi sono contento di aver sentito, e lo sarà anche lei quando saprà tutto. Capisce che Pollyanna forse può tornare a camminare. Jimmy, che cosa intendi dire? Disse la signorina Polly, chinandosi su di lui come per sentire meglio. Come le stavo dicendo, continuò Jimmy soddisfatto, il dottor Chilton conosce un certo dottore, non so dove, che può curare Pollyanna, pensa che potrebbe farla camminare ancora, ma non può dirlo di sicuro se non la visita prima, e lui vuole vederla a tutti i costi, ma ha detto al signor Pendleton che lei non glielo permetterà. La signorina Polly diventò rossa. Ma Jimmy, io non posso, cioè non potevo, insomma io non sapevo, disse la signorina Polly, torcendosi le dita senza sapere più cosa dire. È per questo che sono venuto, perché lei potesse saperlo, disse il ragazzo soddisfatto. Loro dicevano che per qualche ragione che non ho capito, lei non aveva permesso al dottor Chilton di venire e di averlo detto al dottor Warren, e il dottor Chilton ora non può venire di sua iniziativa senza che lei glielo chieda per via della dignità professionale o di qualcosa del genere. E loro erano là che non sapevano. Non sapevano chi avrebbe potuto dirglielo. Io che ero sotto quella finestra mi sono detto ci vado io, sicuro che ci vado io. E così sono venuto. È tutto chiaro adesso? Sì, Jimmy, ma quel dottore, disse la signorina Polly con ansia, chi è? Che cosa ha fatto? E sono sicuri che potrebbe far guarire Pollyanna? Non ho capito chi è, non hanno nemmeno detto il nome, il dottor Chilton lo conosce e ha detto che ha già curato qualcuno nelle stesse condizioni di Pollyanna. Comunque non era di quel dottore che si preoccupavano, ma di lei, signorina Harrington, perché non permetteva che il dottor Chilton visitasse Pollyanna. E per favore, lo farà venire adesso. Ha capito tutto, vero? La signorina Polly era estremamente agitata. Respirava a fatica e Jimmy, osservandola preoccupato, pensò che stesse per scoppiare in lacrime. Ma non pianse e dopo qualche minuto disse con voce rotta: Sì, permetterò che il dottor Chilton la visiti. Adesso corri a casa, Jimmy, svelto. Devo parlare con il dottor Warren che è di sopra. L'ho visto passare dal giardino pochi minuti fa. Un po' più tardi, il dottor Warren fu molto sorpreso di incontrare nell'ingresso una signorina Polly estremamente agitata e con il viso alterato, e fu ancora più sorpreso quando si sentì dire: Dottor Warren, una volta lei mi aveva espresso il desiderio di chiamare a consulto il dottor Chilton e io ho rifiutato. Da allora ho riconsiderato questa possibilità e desidero che lei lo chiami al più presto, anzi, immediatamente. La ringrazio. Capitolo 31. Il sogno di Pollyanna si avvera. La volta successiva in cui il dottor Warren entrò nella stanza e Pollyanna era intenta a guardare i giochi di luce che i prismi di cristallo proiettavano sul soffitto, era seguito da un uomo alto con grandi spalle larghe. Dottor Chilton! Oh, dottor Chilton, quanto sono contenta di vederla! Esclamò Pollyanna felice, e la sua voce gioiosa risuonò nella stanza mentre molti occhi si riempivano di lacrime. La zia, però, non vuole. Stai tranquilla, tesoro, va tutto bene, disse la signorina Polly, un po' agitata e dirigendosi verso di lei. Ho detto al dottor Chilton che desidero che ti visiti insieme con il dottor Warren oggi. Allora gli hai chiesto tu di venire, esclamò Pollyanna mostrando una grande contentezza. Sì, tesoro, gliel'ho chiesto io, cioè Ormai era troppo tardi. L'intensa felicità che si leggeva negli occhi del dottore era inequivocabile. La signorina Polly se ne accorse e, colta da imbarazzo, lasciò in fretta la stanza. Vicino alla finestra, l'infermiera e il dottor Warren parlavano a bassa voce. Il dottor Chilton tese le mani alla bambina. Piccola cara, credo che la cosa più bella che tu abbia fatto si sia avverata oggi, disse con la voce scossa dall'emozione. Verso sera venne a sedersi vicino al letto di Pollyanna una zia Polly stupendamente diversa ed emozionata. La signorina Hunt era andata a cena e zia e nipote erano sole. Tesoro, voglio che tu sia la prima a sapere la notizia. Il dottor Chilton diventerà tuo zio. E se ciò è accaduto, è stato per merito tuo, Pollyanna. Sono tanto felice, tanto, tanto contenta, mia cara. Pollyanna stava per abbracciarla, ma un improvviso pensiero la fece rimanere con le braccia aperte mentre diceva: Ma zia Polly, allora eri tu la donna di cui voleva il cuore e la mente tanto tempo fa? Sì, eri tu, sono sicura. Ed è per questo che oggi ha detto che questa era la cosa più bella che avessi mai fatto. Oh, zia Polly, sai, sono tanto contenta, così tanto che non mi importa nemmeno più delle gambe adesso. La zia Polly represse un singhiozzo. Può darsi che un giorno, tesoro, ma non terminò la frase. La zia non osava parlarle ancora della grande speranza che il dottor Chilton le aveva messo nel cuore, ma un'altra cosa poteva dirle, per Pollyanna era già un motivo per essere contenta. Pollyanna, la settimana prossima farai un lungo viaggio. Ti porteremo da un famoso dottore che ha una clinica dove curano casi come il tuo. E un caro amico del dottor Chilton e vedremo che cosa potrà fare per te. Capitolo 32. Commozione in corsia. Carissimi zia Polly e zio Tom, e la vostra Pollyanna che vi scrive, non è un sogno, ma posso camminare. È accaduto oggi. Sono andata dal letto alla finestra. In tutto 6 passi, ma che meraviglia essere di nuovo sulle proprie gambe. Tutti i medici mi stavano intorno e sorridevano e le infermiere dietro di loro piangevano. Una signora della stanza accanto che aveva camminato per la prima volta la settimana scorsa era lì anche lei e un'altra che spera di poter fare i primi passi il mese prossimo è stata portata sul letto accanto al mio e batteva le mani dalla gioia. Persino Tilly, che lava i pavimenti, si è fermata a guardare attraverso la porta a vetri e mi ha chiamata piccolo angelo. Non capisco però perché piangessero. Io avrei voluto cantare, gridare, urlare. Ci pensate? Posso camminare, camminare, camminare. Non mi importa di essere qui da quasi 10 mesi, anche perché non mi sono persa alle vostre nozze. È stato proprio da te, zia Polly, volerti sposare qui, o vicino al mio letto. Pensi sempre alle cose più belle. I medici dicono che potrò venire a casa tra non molto. Vorrei fare la strada a piedi, sul serio. Non credo che prenderò mai più nessun mezzo, mai per andare in qualsiasi posto. Oh, come sarà bello poter camminare e basta. Sono così contenta. Sono contenta per tutto. Anzi, adesso sono contenta di aver perso l'uso delle gambe per tanto tempo, perché non si può immaginare che cosa meravigliosa diventino le gambe quando si era pensato di averle perdute per sempre. Domani camminerò ancora e farò 8 passi. Tanti baci a tutti, Pollyanna. Fine.